Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Oggi torniamo a parlare di una realtà che interessa moltissimi italiani. Nel nostro paese, infatti, quasi 2,5 milioni di famiglie, praticamente una su 10, ricorrono ai servizi di collaboratrici e collaboratori domestici, un settore la cui importanza è destinata anche a crescere se consideriamo che un abitante su 5 supera i 65 anni di età e il 5,8% della popolazione è formata da over 80enni. Avvalersi quindi di queste figure professionali che noi comunemente chiamiamo colf o badanti e che diventeranno sempre più importanti e richieste, fonte di un impegno considerevole per le famiglie che si ritrovano ad essere a tutti gli effetti datori di lavoro domestico. Colloqui, selezione, formalizzazione del rapporto di lavoro e regolarizzazione del contratto, in molti casi poi, l'abbiamo visto anche con altre puntate a Salva Danaio, la questione è anche strettamente legata ai regolamenti sui flussi per l'ottenimento dei permessi di soggiorno. In tutti questi casi che cosa è importante fare? Informarsi, seguire attentamente le procedure per riuscire ad adempiere a tutti gli obblighi. Oggi noi ci concentriamo in particolare su un aspetto che è quello dei pagamenti dei contributi per questi lavoratori una volta che ovviamente il rapporto di lavoro è formalizzato e correttamente appunto gestito. L'INPS infatti da aprile attiverà una serie di servizi appositi, nuove modalità con cui vuole semplificare la vita del datore di lavoro evitandogli così lunghe code e pratiche complicate. Allora, per raccontarci tutti questi cambiamenti stamattina è tornato a trovarci Salva Danaio, il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che saluto cordialmente. Presidente, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Collegato come potete ben sentire dai nostri studi, dagli studi Radio 24 di Roma. E allora, per tutte queste novità, qualora vi sia già arrivata la comunicazione IMSS a casa ma non avete ben compreso che cosa cambierà nei prossimi mesi per quello che riguarda appunto le modalità di versamento anche dei contributi IMSS, chiamateci all'800 24, anche se non è solo questa la novità, poi vi specificheremo anche quali sono le altre. Chiamateci all'800 24 0024, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Il quadro di borsa, diamo un'occhiata un attimo perché anche oggi si preannuncia una giornata interessante soprattutto per Piazza Affari. Stamattina è andata molto bene Tokyo, come sapete la stiamo monitorando attentamente da quando c'è stato il devastante terremoto e lo tsunami, l'allarme nucleare. La piazza asiatica stamattina ha chiuso con un rialzo del 4,36%, quindi molto bene sulla via del recupero. Speriamo che l'allarme nucleare si ridimensioni ogni giorno di più, anche se non ne siamo ancora del tutto convinti. In ogni caso, questa è la situazione sul Nikkei. Stamattina invece in Europa, che oltre ad essere preoccupata per le vicende giapponesi, naturalmente è molto più preoccupata per l'evoluzione della crisi libica. Dopo i rialzi di ieri, oggi l'Europa consolida i progressi appunto che sono stati fatti nella seduta precedente. Appunto sono in leggero ribasso Francoforte e Londra, -0,2% e -0,13% rispettivamente. E positiva Parigi, +0,24%, e positiva Milano, che stamattina era la miglior piazza d'Europa, guadagnava oltre un punto. Adesso il FTSE MIB è a +0,63%. Quali sono i titoli che sostengono Milano? Ansaldo +2,78%, Popolare di Milano +1,97%, Generali +1,61%, Eni +1,60%, il petrolio viaggia sui $102 al barile, Enel +1,49%, Terna +1,17%, Mediolanum +1,11%. Per quello che riguarda invece i titoli a ribasso, e qua troviamo subito il caso della giornata, Parmalat -4,87%, i francesi sempre più forti nelle capitali del gruppo di Collecchio, sono arrivati al 29%, ieri la Consob aveva chiesto ai francesi appunto di Lactalì di chiarire quale fosse la natura in qualche maniera della loro avanzata del capitale, 13,7% detenuto fino a ieri. Stamattina si è appreso appunto che c'è stato questo accordo per comprare da tre grandi fondi di investimento le loro quote al prezzo di €2,80 per azione, un acquisto che ha riguardato complessivamente il 15,3% del capitale del gruppo di Collecchio e che appunto ha significato salire per Lactalì al 29% di Parmalat. Ancora un altro minimo acquisto, e scatta l'obbligo dell'offerta pubblica pubblica di acquisto sul gruppo agroalimentare, per cui una battaglia che si fa sempre più intensa in vista dell'assemblea in programma agli inizi di aprile. Tra gli altri, dicevamo del titolo, meno 4,79%, è stato brevemente sospeso dalle contrattazioni ad avvio di seduta. Poi ripartito con un rialzo di quasi un punto e mezzo che ha bruciato subito, adesso siamo appunto a meno 4,79%, il prezzo è 2,34 euro, quindi siamo ben lontani dal prezzo concordato per l'operazione di cessione delle quote di questi fondi di investimento ai francesi, appunto, di Lactalis. Prysmian meno 2,54, tra gli altri titoli a ribasso dopo l'annuncio di un'indagine dell'antitrust brasiliana sul settore cavi nei confronti di diversi produttori e quindi anche su Prysmian. Campari meno 1,30, Fondiaria meno 1,25%. Sempre più forte l'euro sul dollaro a 1,42,41 in un mercato che sa bene che ad inizio aprile potrebbe arrivare un aumento dei tassi di interesse. Su questa indicazione l'euro si sta muovendo da qualche giorno. Lasciamo la borsa per andare invece adesso al tema che affronteremo questa mattina. Parliamo di lavoro domestico e di tutte le novità INPS sulle comunicazioni obbligatorie e pagamenti dei contributi. Da aprile 2011 i datori di lavoro domestico potranno tirare un sospiro di sollievo e dimenticarsi di lunghe file allo sportello per comunicare con l'INPS. Per questa primavera, infatti, sono state messe a punto nuove modalità per pagare i contributi ai collaboratori domestici e per comunicare eventuali variazioni nei rapporti di lavoro. I diretti interessati riceveranno una lettera in cui si annunciano tutte le novità progettate per aiutarli nella gestione di diverse pratiche, descritte accuratamente con appositi vademecum. Come è facile immaginare, la semplificazione passa soprattutto attraverso le procedure informatiche, in linea con il percorso di modernizzazione dei rapporti tra INPS e contribuenti già messo in atto in molti altri casi. Per eseguire i pagamenti non si dovrà più utilizzare il bollettino postale, potendo contare su modalità telefoniche e online. Si attiveranno inoltre servizi gratuiti di notifica e avvisi sulle scadenze tramite SMS e email. Per i versamenti ci si potrà recare anche in tabaccheria e in alcuni sportelli bancari. Diventa sempre più prezioso, alla luce di tutte queste novità, il codice PIN rilasciato negli scorsi mesi dall'INPS. Chi non lo avesse ancora può richiederlo direttamente dal sito. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ci sono alcuni ascoltatori che stanno già prenotando alcune telefonate chiedendoci dei chiarimenti sulla natura del contratto di lavoro siglato col proprio lavoratore domestico. Allora, noi questa mattina in realtà facciamo una trasmissione su un tema leggermente diverso, cioè su tutte le modalità di comunicazione di questo rapporto di lavoro all'INPS. Vi volevo preannunciare che però lunedì prossimo ci occuperemo invece dei dettagli che ci state chiedendo questa mattina con una puntata apposita che realizzeremo con i colleghi del Sole 24 Ore del lunedì, come facciamo appunto ogni lunedì. Tra l'altro, seppure vi interessa, c'è anche in edicola una guida pubblicata dal Sole 24 Ore fino al 15 aprile che si chiama Colf e Badanti, che esamina con taglio pratico e operativo tutti gli aspetti del lavoro domestico, l'assunzione, gli adempimenti correlati, il soggiorno dei lavoratori stranieri, il corretto inquadramento contrattuale e retributivo, per cui per tutte le domande su questo tema potete avvalervi, anche se vi serve, di questa guida. Detto questo, Presidente Mastrapasqua, finalmente iniziamo. Allora, intanto ricordiamo che i contributi per il lavoro domestico si pagano 4 volte l'anno, si versano 4 volte l'anno all'INPS. Assolutamente sì, si versano a scadenza trimestrale il 10 aprile, il 10 luglio e così via. Mi fa piacere dire una cosa, non dico che fare il presidente dell'INPS è una cosa scomoda, ma vi assicuro che andare a cene e a incontri dove c'erano le mogli di qualche amico, di qualche persona, e sentirsi sempre dire che era complicato, se non addirittura quasi impossibile, avere rapporti con l'istituto per le domestiche, è forse stata la molla che mi ha spinto a far sì di dire: o si rivoluziona tutto o io non esco più di casa. Presidente, ecco. È un po' come quando io mi incontro con qualcuno che pensa che sappia tutto di borsa, che abbia chissà quali tipo di informazioni di prima mano, che sia una grande investitrice, insomma, per noi è tutto facile, in realtà non è così. Tante volte occupare certi posti è molto più complicato di quanto non si pensi. Assolutamente. Scusi per l'inciso, sì. E quindi qual è stata la decisione che io fortemente ho voluto e che poi gli uffici hanno realizzato? Quello di semplificare, banalizzare, rendere veramente la cosa più normale del mondo avere sia un rapporto con una persona collaboratrice familiare o badante, che pagare i contributi, che avere le comunicazioni da noi. E questa è stata proprio la motivazione che ci ha spinto e che ha portato. Innanzitutto, prima mi ricordo, per assumere una domestica bisognava compilare moduli e quant'altro, oggi basta o una telefonata o un click sul nostro sito e si assume. Non serve nient'altro. Noi subito dopo mandiamo a casa una comunicazione dell'avvenuta assunzione con un modello MAV. E la rivoluzione vera sta in che cosa? Che da quel momento in poi, per pagare i contributi, per calcolare i contributi, cosa complicatissima, infatti, perché ovviamente il rapporto di lavoro con una domestica varia di mese in mese, quindi non ci può essere, no, una paga stabile se non c'è un rapporto stabile, sarà possibile farla sul sito. Si va lì, si calcola, si stampa il MAV, se si vuole pagare non bisogna più cambiare l'assegno, dare il contante e fare la fila alla posta, ma si può pagare agli uffici postali, alle tabaccherie, agli sportelli bancari, si può pagare, cosa che io ho voluto fortemente, tramite il telefonino, con la carta di credito oppure col POS virtuale tramite il sito. Cioè, in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, Presidente, tra l'altro quello che volevo dire è che non è che questa novità della quale stiamo parlando questa mattina, così la stiamo annunciando a Salvadanaio, voi l'avete già comunicata, ma soprattutto la state comunicando progressivamente a tutti i datori di lavoro domestico con una lettera di introduzione e un vademecum, no, che informa su queste nuove procedure previste dal mese di aprile. Noi abbiamo mandato e arrivano in questo fine settimana dovrebbero arrivare a tutti quanti i datori di lavoro, di lavoratori domestici o badanti, arriva una mia lettera con il vademecum, che però ha anche, diciamo, una parte alla quale io tengo tantissimo. Fino ad oggi la grande difficoltà anche da parte dell'istituto di avere chiarezza nei propri rapporti ha fatto sì che l'istituto non fosse così puntuale come lo è con tutti quanti gli altri datori di lavoro ovviamente non domestici. Questo è l'effetto della modernizzazione, della telematizzazione, della semplificazione. Sarà che noi da quest'anno in poi, per chi non paga i contributi un trimestre, manderemo un avviso bonario, ma che poi si trasformerà anche in un ruolo, per chi non ci comunica la cessazione. Noi oggi abbiamo ancora 800.000 datori di lavoro che non versano più, sono cosiddetti silenti, si sono scordati di comunicarci che non hanno più la domestica. Noi nei prossimi mesi gli scriveremo, gli ricorderemo, senza sanzioni ci dovrà dire che cosa è successo, ma poi il rapporto di lavoro domestico è un rapporto di lavoro a tutela, e qui lo voglio dire perché spesso si fanno tante trasmissioni sulle persone deboli, ma poi dopo è anche il pubblico, è anche l'INPS che non l'ha tutelati fino in fondo. Se non mi arrivano i contributi pagati, è un lavoratore dove il datore di lavoro è un evasore, certo, di contributi, e noi faremo di tutto per poter, no, far sì che questa cosa venga sanata. Benissimo. Presidente, mi scusi se la interrompo, sono già fuori tempo massimo per la prima pausa, devo andare adesso alla pubblicità e alle previsioni meteo, ma ci sono già molte domande per lei all'800240024, quindi ci risentiamo tra pochissimo. Ed eccoci ritrovati in diretta questa mattina con il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, con il quale vi stiamo raccontando cosa succede dal 1° aprile di quest'anno, quindi entro pochi giorni, perché ci sono delle novità che riguardano il rapporto di lavoro con il nostro collaboratore domestico. Le novità riguardano le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro domestico deve fare in caso di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione del rapporto di lavoro, e poi ci sono anche delle novità che riguardano le modalità di pagamento dei contributi obbligatori INPS, perché dal 1 aprile scompare la possibilità di pagare questi contributi tramite il tradizionale bollettino di conto corrente postale, ma si va in via telematica esclusivamente. Presidente Mastrapasqua, ci sarà comunque una fase di transizione, perché almeno per aprile, se non ricordo male, c'è ancora aperta la facoltà di pagare con il bollettino postale, per chi fosse un po' spaventato dall'avvento di questa novità. Sicuramente la scadenza del 10 aprile, quindi del primo trimestre 2011, sarà consentito l'utilizzo ancora del conto corrente postale. Poi non finisce la possibilità di pagare non solo telematicamente, perché le poste accettano i MAV. Cambia lo strumento, il MAV non è altro che un bollettino un po' più, diciamo, nobile, per cui ha elementi che fanno più identificare le caratteristiche del contenuto stesso, quindi si potrà continuare ad andare chi vuole andare in posta o andare, però utilizzando il MAV, non più il conto corrente postale, e noi stiamo mandando i MAV a tutti quanti i datori di lavoro domestici, appunto per far prendere confidenza con questo nuovo strumento. Sì, allora a partire dal 2012 invece il MAV potrà essere generato, non arriverà più dall'INPS, soltanto collegandosi al sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, utilizzando appunto il cosiddetto PIN. Presidente, ci sono degli ascoltatori che vogliono sapere se questo PIN, proprio per essere utilizzato per la gestione del rapporto di lavoro con il collaboratore o la collaboratrice domestica, deve essere fatto dal datore di lavoro o dalla badante, chiede un ascoltatore. No, il PIN del datore di lavoro. Il PIN è di colui che paga e quindi è del datore di lavoro. Perfetto. Andiamo a Ornella dalla provincia di Milano, con la quale inauguriamo le nostre telefonate di stamattina. Ornella, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io chiamavo per questo motivo, siccome alcuni giorni fa appunto noi abbiamo una badante, mi stavo preparando per fare il calcolo dei contributi e sono andata sul sito per controllare come potevo fare per pagarlo via internet. Mm. Però quello che io chiedo, guardando appunto nel sito, il costo di questo bollettino è più alto che non quello che io vado a pagare. Fino ad ora come aveva pagato Ornella? Io ho sempre pagato in posta, quindi la tassa del bollettino postale è 1,10 euro, mentre se io lo faccio online costa di più, voglio dire, già il costo dei contributi non qua, è poco. Adesso vediamo se dobbiamo bacchettare il presidente dell'INPS. Presidente, a sua parte gli scherzi, c'è anche una remunerazione da garantire in sostanza per la via telematica? Dunque, fino al 31 marzo la signora Ornella ha ragione, perché si pagava un costo aggiuntivo. Ah, ecco. Dal 1 aprile, quindi dalla scadenza del 10 aprile, potendolo pagare con le proprie carte di credito, ognuno pagherà con quanto le proprie carte di credito fanno addebitare al proprio assistito. Quindi non c'è più un transito attraverso di noi, ma è come avviene con qualsiasi acquisto online. Quindi uno paga rispetto a quello che è il suo la sua tariffa che gli fa la propria carta di credito. Utilizzando il sistema delle reti amiche, presidente, lo stesso si dovrà versare comunque una commissione per reti amiche è zero. Ecco, quindi per esempio andando in tabaccheria sicuramente si potrebbe risparmiare qualcosa. Andando in tabaccheria zero, andando nelle banche che hanno reti amiche è zero. Ognuno poi avrà, diciamo, pagherà quello che è il proprio rapporto col proprio gestore degli strumenti di pagamento. Quindi l'INPS esce da questa partita giustamente, perché potendo utilizzare tutti gli strumenti ognuno pagherà quello che ha come convenzione. Ecco, però insomma, se ancora non avete capito bene tutte le modalità di queste novità, a parte sul sito dell'INPS, presidente, ci sono tutti i riferimenti, no? Sul sito c'è veramente tutto, di più, ma poi la lettera che arriverà in questo weekend, che ovviamente sarà riprodotta anche sul sito perché può succedere, conterrà veramente tutte le possibilità di capire come funziona il nuovo modo di gestire le lavoratori. Ecco, magari forse fare anche una comunicazione sui costi che si sosterranno a seconda del canale che si sceglie, forse magari potrebbe essere utile. Tra l'altro, per chi volesse, magari non gli basta la comunicazione dell'INPS, ci sono anche le associazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro. Uno di queste per esempio è Assin.Colf, con la quale abbiamo fatto numerose puntate di Salvadanaio, e lo stesso sta distribuendo il vademecum per i datori di lavoro, proprio per chiarire la natura e la portata delle novità delle quali stiamo parlando questa mattina. Allora andiamo a Fernanda da Firenze. Fernanda, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho telefonato per sapere come mai a tutt'oggi, avendo una badante assunta a ottobre, ancora non mi è arrivato niente dall'INPS. Fernanda, allora sentiamo un po' se è un tempo regolare, presidente, questo ritardo, oppure si è regolarizzato il rapporto di lavoro, entro quanto tempo arriva il primo bollettino INPS per il versamento trimestrale dei contributi? Noi li mandiamo entro le due settimane successive. Sicuramente in questa fase nella quale stiamo portando tutto sul MAV, la comunicazione la mandiamo con questo fine settimana, perché in modo tale che abbiamo già trasportato tutto non più sul vecchio sistema ma sul nuovo sistema. Credo che però questa forse sia un caso differente, perché addirittura la badante è stata assunta e regolarizzata da ottobre, quindi è da quel momento che non arrivano ancora i bollettini con i contributi. Per esempio, ecco, un caso come questo, presidente, Fernanda, potrebbe, tanto per capire appunto e chiarire questo problema, a parte telefonare Salvadanaio come ha fatto stamattina, ma utilizzare il vostro numero verde? Sicuramente può chiamare il numero verde, sapere se la sua assunzione è stata da noi regolarizzata, quindi se è stata acquisita nei nostri sistemi, chiedere di inviare il bollettino che sono arrivato e noi lo inviamo immediatamente, oppure andare sul sito. con il proprio PIN, stamparsi lì il bollettino che esce come MAV e quindi semplicemente senza doversi recare a nessuna parte far avere tutti quanti gli adempimenti. Il numero verde, lo ricordiamo, è l'803 164, e funziona il lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14. Spero di aver detto tutto correttamente. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per intervenire, oppure chiamateci, oppure scriveteci al 349 238 6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. C'è una domanda lunga di Riccardo da Milano che ci spiega che ha attivato l'iter per la regolarizzazione per una collaboratrice familiare con il decreto flussi del 2009. Dopo alcuni mesi è arrivata la notifica INPS con i bollettini per il versamento dei contributi per due trimestri, ma lui dice la pratica non è ancora chiusa perché ci sono stati problemi di evidentemente riportare i dati anagrafici eccetera, quindi non ha ancora il contratto di lavoro. L'INPS a questo punto non ha più inviato i bollettini, mi hanno detto che non devo versare fino a quando non arriveranno i nuovi bollettini perché il lavoratore non è iscritto al ruolo. È corretto? Presidente Mastrapasqua, rischia qualcosa non versando i contributi? Poi tra l'altro non ho capito se questa persona sta regolarmente lavorando per Riccardo. È appunto questo qui, è chiaro che è una domanda importante. Oggi, fino ad oggi non si rischia se uno non ha diciamo nel passato versato regolarmente i contributi, perché lo ammetto, non eravamo in grado, l'INPS non era in grado di stabilire ritardi o quant'altro. Sicuramente dal 10 aprile in poi, se non si pagano regolarmente i contributi, il fatto di doverli pagare o meno non posso essere certamente io a dirlo, perché bisogna vedere la fattispecie, ma sicuramente dal 10 aprile in poi ci sarà una gestione attenta delle scadenze di pagamenti. Allora, oltre al versamento dei contributi, questa è una parte importante della trasmissione di questa mattina, dicevamo che dal 1 aprile ci sono delle novità che riguardano appunto la comunicazione telematica, che riguarda le comunicazioni obbligatorie nell'ambito del rapporto di lavoro con il lavoratore domestico, comunicazioni obbligatorie appunto che si devono fare quando si assume una professionalità di questo tipo, quando si trasforma il contratto di lavoro, quando si decide di prorogarlo, quando si decide di cessarlo. Su questo punto c'è una domanda di Massimo da Roma. Massimo, buongiorno, le faccio fare la domanda al volo, poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio. Sì, buongiorno, io ho assunto una colf. Ho avuto tutte le informazioni in via telematica, ho pagato tutti i bollettini, adesso con questa golf il rapporto si è chiuso ai primi di marzo, ho ricevuto la lettera nella quale mi si comunicava con il PIN, ho fatto il collegamento al sito, non sono riuscito a comunicare attraverso il sito che la golf è andata via. Dove si inceppa il meccanismo, Massimo? Cosa è successo? Che magari è un problema di connessione, non si capisce dove bisogna andare. Il sito è veramente molto completo, talmente completo che nonostante abbia una distinta esperienza in campo telematico, ma non sono riuscito a trovare dove mi si comunica. Guardi, allora adesso diamo un minuto di tempo al presidente dell'INPS per andare a collegarsi sul suo sito per vedere come mai appunto questo non è stato possibile. Massimo, speriamo di accontentarla tra pochissimo. Allora, presidente Mastrapasqua, ha sentito cosa è successo a Massimo da Roma, una persona insomma che ha una certa praticità anche con l'utilizzo dello strumento informatico, nessun problema con il computer, non è riuscita a trovare l'apposito luogo sul sito dell'INPS appunto per poter risolvere il rapporto di lavoro con la sua collaboratrice domestica. Allora, oggi mi dicono per il licenziamento si va sui servizi online, stiamo trasferendo anche alcune cose che erano rimaste sui vecchi servizi all'interno della parte dedicata ai contributi e quindi al lavoratore domestico. Comunque si può fare telefonicamente facilmente, quindi senza dover andare. Infatti effettivamente Massimo aveva anche una parte conclusiva della sua domanda: che alternative ha al momento, quindi potrebbe farlo telefonicamente. Certo. Allora, sentendo parlare di tutto quello di cui parliamo stamattina, presidente, forse lei, siccome so che ha i nostri monitor anche sotto gli occhi, avrà avuto modo di vedere che si stanno spaventando in molti pensando che da oggi in avanti o da aprile in avanti si dovrà fare tutto davanti ad un computer. Ecco, specifichiamo un po' bene qual è la portata della novità. Abbiamo anche parlato di reti amiche, quindi ci sono tante alternative. Allora, rimane tutto come prima, solo che ci sono più strumenti. Cioè, prima era obbligatorio andare presso le sedi e presentare delle cose, oggi ci sta il telefono, quindi un numero verde dedicato che può far sì che si può parlare, assumere, licenziare, farsi fare il calcolo dei contributi, pagare e tutto quanto. C'è reti amiche, gli uffici postali, gli sportelli bancari, le tabaccherie, ci sta il telefonino, si può fare tramite telefonino. Quindi si sono aperte un ventaglio di opportunità, tra le quali c'è anche il computer, ma non c'è solo il computer, anzi il computer è una delle tante modalità con le quali si può dialogare con l'istituto. Allora, andiamo a Fabrizio dalla provincia di Milano, che tra l'altro aveva proprio un'osservazione in linea con quanto abbiamo indicato adesso. Fabrizio, buongiorno. Si è spaventato perché non ha il computer? Buongiorno a lei. No, non sono spaventato, però vorrei capire un momentino. Io fino adesso ho pagato normalmente in posta tutto quello che viene, mi si dice di pagare attraverso il bollettino, no? Sì. Però appunto, non avendo il computer, sentendo queste cose, incomincio a dire. No. I numeri mi consente. Infatti. Allora Fabrizio, parte, il tema, no? È che adesso non avrà più intanto un bollettino di conto corrente postale. Presidente, la prima cosa è questa. Fabrizio non riceverà più un bollettino di conto corrente, ma riceverà un MAV, che non cambia nulla, cioè di fatto è quasi uguale. Può andare in posta, quindi se è affezionato ad andare in posta può andare lo stesso in posta, ma anziché pagare col bollettino di conto corrente pagherà con questo MAV. Ma se la posta è lontana, cioè la fila fa gli orari, lui vuole andare alle 11 di sera ad Altabaccaio, può pagare con il MAV da tabaccaio o può semplicemente dire il suo rapporto di lavoro, il tabaccaio lo trova come si paga il bollo e farlo pagare. Quindi ci sono più strumenti, ma se Fabrizio vuole andare alle poste e pagare, lo potrà fare anziché conto corrente col MAV, che è la stessa identica cosa. Esatto, e il MAV, lo ricordiamo ancora, per tutto il 2011 verrà inviato dall'INPS. A partire dal 2012 invece, utilizzando il proprio PIN di riferimento dell'INPS, dovrà essere direttamente generato. Ma se una persona, in questo caso appunto come sosteneva l'ascoltatore, ha un po' il timore a utilizzare il computer e non vuole farlo, come fa, Presidente? Lo stesso utilizza il canale alternativo, il numero verde? Guardi, lo possono generare per esempio i ragazzi del vostro call center? Sicuramente. Noi, ovviamente questa è una rivoluzione, perché erano 30 anni che la situazione era in questo modo. Per il 2011 noi continuiamo a mandare i MAV. Sicuramente vorremmo dal 2012 evitare di fare questa cosa, ma se ci accorgiamo che il canale di quelli che lo ricevono e lo pagano quello che noi abbiamo mandato continua a essere ben frequentato, nulla osta che noi nel 2012 continuiamo a mandare i MAV a casa, perché noi vogliamo stare vicino ai cittadini e semplificare la vita e non certo renderla più complicata di come era adesso. No, tra l'altro stavo guardando anche che oltre al circuito di reti amiche, oltre all'utilizzo del web, il vostro portale con il PIN o con la carta di credito, o utilizzando il numero verde sempre attraverso il PIN e la carta di credito, o utilizzando appunto il bollettino MAV, c'è anche una grande banca che appunto consente il pagamento dei contributi INPS, che è Unicredit. Lo stavo guardando perché ho sotto anche il vademecum per i datori di lavoro di Assin.colf, che è l'associazione appunto dei datori di lavoro domestici, per cui magari questo ascoltatore che ci ha chiamato casualmente ha anche questa banca e quindi potrebbe anche chiedere informazioni attraverso questa. Ma la cosa importante è che Unicredit è la prima banca, ma si stanno già, io sto per firmare le prossime convenzioni, ci sono tanti altri istituti che entrano nel circuito reti amiche, tra le quali si può anche pagare i contributi dei quindi, domestici. Insomma, diciamo che la prima rivoluzione radicale, Presidente, è che non arriva più il bollettino di conto corrente postale, ma arriva il MAV. La prima è questa. La seconda è che mentre prima senza questo bollettino si entrava in panico, oggi invece uno va dal tabaccaio e dice: mi chiamo, questo è il mio codice fiscale, cosa devo pagare questo trimestre? Il tabaccaio entra e gli dice l'importo che lui lo paghi. Pensi, una cosa semplicissima. Anzi, se uno dal tabaccaio dice: guardi, prima faceva 36 ore, adesso ne ha fatte 37, il tabaccaio gli cambia la cosa. Quindi pensi come tutto più semplice. È in grado il tabaccaio addirittura di calcolare l'importo dei contributi da versare in quel trimestre. Beh, e questa è la grande novità. Il tabaccaio è in grado dal suo computer di calcolare i contributi che bisogna pagare. No, un'altra cosa che non abbiamo detto, che pure è molto importante, a parte il fatto che è importante essere muniti del codice PIN rilasciato dall'INPS, ma si può utilizzare anche questa, ce l'abbiamo in molti, la Carta Nazionale dei Servizi, Presidente, per espletare tutte queste nuove procedure? Certo, si può ovviamente abilitare o col PIN o con la CNS, che è uno strumento ancora più importante e grande. Io ho piacere di dire una cosa alla quale tengo molto, soprattutto per i collaboratori domestici extracomunitari, che non hanno un permesso di soggiorno stabile ma lo hanno solamente per il lavoro. Molto spesso, e questo ci si accorge quando ci sono le sanatorie, c'è un boom di iscrizione all'INPS e poi piano piano alcuni numeri vanno scemando. C'è una legge da tanti anni che è stata disattesa per motivi ovviamente informatici, per cui se un lavoratore extracomunitario che ha un permesso ovviamente provvisorio non lavora più, noi dobbiamo comunicarlo al Ministero degli Interni ovviamente per gli adempimenti successivi. È ovvio che l'interesse dell'INPS non è quello, no, di far espellere nessuno dall'Italia, ci mancherebbe altro, ma è quello di tutelare i lavoratori che molto spesso dopo un inizio regolare vengono, no, vanno nel lavoro sommerso. Con questi nuovi strumenti noi saremo in grado di segnalare al Ministero degli Interni chi non ha più un lavoro presso l'INPS e quindi chi ha, purtroppo perde il diritto di mantenere questa ovviamente opportunità, e questo nella tutela delle persone deboli che sono molto spesso i lavoratori domestici extracomunitari. Infatti, e questo è molto importante, ecco, i datori di lavoro lo devono sapere, perché questa cosa che hanno fatto per tanti anni non sarà più possibile, perché noi sappiamo che non lavorano più e lo possiamo comunicare al Ministero degli Interni. Allora, io non riesco a rispondere alla domanda di Carla dalla provincia di Brescia. Carla, se ha tempo, ci scriva a salvadanaio@radio24.it. Io chiuderei qua la partita legata alle comunicazioni relative al rapporto di lavoro domestico per fare un'ultima domanda al presidente dell'INPS, a cui chiedo di rispondermi in maniera telegrafica perché siamo già fuori tempo massimo. C'è chi ci scrive, presidente, che molti pensionati non hanno ancora ricevuto dall'INPS il CUD per il 2010. Siete in ritardo oppure siamo ancora nei tempi normali? Sta arrivando. Per quello che riguarda invece la dichiarazione dei redditi, il 730, molti pensionati negli anni passati avevano facoltà di farlo presso direttamente alcuni sportelli dell'INPS. Da quest'anno credo che non sarà più possibile, ce lo conferma? Ma era un'attività non di quelle nostre caratteristiche, in una riorganizzazione tra tutti gli uffici della pubblica amministrazione, ogni ufficio fa il suo lavoro, l'INPS lo faceva in modo generoso, ma oggi è più difficile poterlo fare. Allora, noi adesso andiamo alla nostra ultima pillola, invece prima dei saluti, il Salone del Risparmio si svolgerà a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile. In vista di questo appuntamento stiamo rispondendo alle vostre domande sul tema del risparmio gestito, i vostri dubbi in materia, le domande che ci lasciate alla segreteria telefonica 828 12 12, ecco la domanda che abbiamo scelto oggi. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Sì, salve, volevo lasciare il mio quesito. Ho dei soldi investiti in fondi e comunque sono preoccupato dall'attuale situazione economica internazionale. Cosa faccio? Mi consigliate di vendere? Molti investitori puntualmente cadono nell'errore di comprare sui massimi e vendere sui minimi, con il risultato di ottenere rendimenti deludenti. In pratica, inseguono i trend anziché cavalcarli. Alcuni studi dimostrano che la performance di un fondo può discostarsi anche significativamente da quella realizzata dal singolo risparmiatore, che entra ed esce frequentemente. I fondi sono strumenti di investimento e non di trading. Intesi in questo senso, hanno aiutato i risparmiatori a navigare nelle acque agitate della borsa. Nonostante la profonda crisi che ha colpito i mercati nell'ultimo anno, i migliori comparti azionari continuano ad avere rendimenti positivi nel quinquennio, orizzonte minimo per questo tipo di strumenti. Le domande del risparmio. Presidente Mastrapasqua, abbiamo terminato anche oggi, la ringrazio per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a voi tutti, grazie, arrivederci. A presto, io ringrazio anche Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica, con Salvadanaio torniamo domani, attenti perché riparliamo di mutui, buona giornata.